Bisogna sottolineare che si pone il problema che può uccidere il gatto. Si spera che tutti siano onesti. Detto questo, la mia risposta è che non lo so. Succede. Caccia al fotone. Interferenze scientifiche in Creative Commons. A cura di Fabio De Sicò. E benvenuti cari ascoltatori alla puntata numero 194 di Caccia al Fotone, il podcast scientifico che ogni settimana vi intrattiene con amene discussioni su scienza e dintorni. Su internet ci potete trovare al sito www.cacciafotone.it. Questa settimana ci occuperemo di informatica e biologia. Come avrete notato, cari ascoltatori, quest'anno ci siamo occupati molte volte di algoritmi. Beh, che cosa sono gli algoritmi? Gli algoritmi altro non sono che quel metodo attraverso il quale creiamo un sistema capace di analizzare i dati e capace di creare il risultato. Insomma, tanto migliore il metodo, tanto migliore è il risultato. Quindi, fondamentalmente, i parametri sono due: il metodo utilizzato e i dati che noi inseriamo. Tanto migliori sono i dati, tanto più preciso sarà anche il risultato. Beh, esistono dei metodi per raggruppare questi dati, i dati che noi inseriamo all'interno dei grafici, per esempio, ed uno di questi metodi si chiama il consensus clustering. Beh, il consensus clustering ha un problema, è un pochino lento. In un paper pubblicato qualche giorno fa su Biomed intitolato Speeding Up the Consensus Clustering Methodology for Microarray Data Analysis, si cerca di analizzare un metodo, o meglio ancora, si cerca di creare un metodo che acceleri appunto il consensus clustering. Ne parleremo questa settimana col professor Raffaele Giancarlo, ordinario di informatica presso l'Università degli Studi di Palermo, e con il dottor Filippo Utro, postdoc presso l'IBM. A questo punto lascio a te la parola, Raffaele, per cominciare la trasmissione e introdurre il contenuto di questo paper nelle 100 parole iniziali. Ok, noi ci siamo interessati di sviluppare delle procedure veloci per l'identificazione di struttura di clusters in insiemi di dati. In particolare ci siamo interessati di dati di origine biologica, tipo dati da espressione genica e dati da macroarrays. Questi dati sono molto importanti perché mettono in luce relazioni tra geni sottoposti alle stesse condizioni sperimentali. Raffaele, allora ti ringrazio, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio. Nella prima parte della trasmissione saremo in tua compagnia e parleremo del consensus clustering, mentre nella seconda parte della trasmissione saremo in compagnia del dottor Filippo Utro e con lui parleremo dei risultati a cui siete arrivati entrambi in questo lavoro. A dopo. Al mio segnale, scatenate l'inferno. I'm not afraid to die. Bring Me Down dei Fresh Body Shop. Questo è il primo pezzo musicale che ci sta accompagnando nella 194esima puntata di Cacciafotone, all'interno della quale stiamo affrontando degli argomenti a metà fra la biologia e la matematica. Ne stiamo parlando, chiacchierando di un paper pubblicato qualche giorno fa su Biomed e meglio ancora su Algorithm for Molecular Biology, e ne stiamo parlando con il professor Raffaele Giancarlo, ordinario di informatica presso l'Università degli Studi di Palermo. Per essere ancora più precisi, il paper si intitola Speeding Up the Consensus Clustering Methodology for Microarray Data Analysis. E quindi la prima domanda che ti faccio, Raffaele, è: che cos'è il consensus clustering, ma soprattutto quando nasce storicamente? E allora, diciamo, consensus clustering è una tecnica che è nata intorno agli anni, diciamo, al 2000, per risolvere uno dei problemi classici della statistica, problemi che hanno almeno, diciamo, 50 anni di storia, se non di più, che è quella di identificare dei gruppi statisticamente significativi all'interno di un insieme di dati. Va bene? Diciamo, per gruppo significativo si intende, diciamo, gruppi di oggetti che hanno caratteristiche comuni, ad esempio colore degli occhi, altezza, eccetera, eccetera, eccetera. Nel caso, diciamo, di dati da microarrays, che sono stati quelli che ci siamo studiati, si tratta di raggruppare assieme geni che hanno comportamenti simili in condizioni sperimentali simili. Consensus clustering nasce appunto nel 2000, nasce al Broad Institute, diciamo, a Boston, che è un grossissimo centro per l'analisi di dati di tipo genomico. Nasce, diciamo, come una tecnica per appunto fare della ricerca in biologia, scoprire le relazioni tra geni. Sfortunatamente nasce con, diciamo, fortunatamente nasce con un grande pregio di essere estremamente accurato nelle previsioni, nel senso che se c'è struttura la trova e ti dice, diciamo, dov'è. E sfortunatamente nasce anche con un difetto, che è quello di essere estremamente lento, diciamo, per dati che contengono, diciamo, un migliaio di geni. Consensus clustering è praticamente inutilizzabile su una macchina normale, ha bisogno, diciamo, di macchine molto potenti. Questo, diciamo, va bene per grossi laboratori di ricerca. Sicuramente il Broad Institute ed MIT non hanno, diciamo, problemi di mancanza di potenza di calcolo, sicuramente ce l'hanno, ma altri centri, diciamo, di ricerca, medi o piccoli, potrebbero non avere a disposizione quel tipo di calcolo, oppure, proprio come problema di tipo, diciamo, filosofico, non è, diciamo, sempre una buona idea tirare potenza di calcolo ad un problema. Ci sono, diciamo, gli algoritmi, e un algoritmo efficiente può far risparmiare l'utilizzo di macchine complesse. Quindi la sfida che abbiamo raccolto con Filippo è quella di un normalissimo computer da 600 euro, 700 euro, in realtà la macchina che abbiamo utilizzato costa circa 2000 euro, se, diciamo, un computer di quel tipo poteva opportunamente, diciamo, programmato, fare consensus clustering in maniera veloce e dando risultati accurati. E questo, diciamo, è il punto più significativo della nostra ricerca, nel senso che la risposta è stata positiva. Raffaele, ti voglio fare una domanda che sicuramente ti sembrerà banale, ma che vale la pena specificare. Prima parlavi dei gruppi significativi e degli elementi all'interno dei gruppi significativi legati fra di loro attraverso alcune caratteristiche. Hai fatto l'esempio della persona con gli occhi azzurri, della persona con i capelli castani, eccetera. Ora, con elementi così chiari, riconoscibili, è molto facile, come dire, fare una distinzione, un raggruppamento. Ma in biologia, quali sono i dati che raggruppano elementi diversi all'interno di uno stesso gruppo? Diciamo, questa è una splendida domanda, perché posta in maniera molto generale, e ciò che si cerca di fare è di stabilire, di misurare una serie di, per esempio, geni rispetto a delle condizioni sperimentali. A questo punto, diciamo, quello che si vuole è cercare di capire se gruppi di geni si comportano allo stesso modo rispetto a queste condizioni sperimentali. Questo che può significare? Può significare che se le condizioni sperimentali sono dei trattamenti farmacologici, e allora alcuni geni vengono espressi sotto certe condizioni farmacologiche, altri vengono, diciamo, spenti. E l'idea, diciamo, è quella di capire questi comportamenti comuni. Diciamo, c'è anche un altro, un altro tipo di domanda che si può fare. Questo, diciamo, viene nella classificazione dei tumori. Si prendono delle istologie da vari pazienti che hanno, diciamo, lo stesso tumore, e si cerca di capire se ci sono delle sottoclassi, raggruppando, diciamo, a seconda di tutta una serie di caratteristiche biochimiche, le istologie. Ecco perché è importante, diciamo, capire se ci sono raggruppamenti e, diciamo, entità biologiche che si comportano allo stesso modo sotto una vasta serie di condizioni sperimentali. Raffaele, allora ti faccio l'ultima domanda prima di andarci ad ascoltare il secondo pezzo musicale, poi di dar parola al dottor Filippo Utro. E quindi ti chiedo: quali sono gli altri ambiti oltre alla biologia, visto che voi avete analizzato solo questo argomento, solo questo aspetto, in cui viene utilizzato il cosiddetto consensus clustering? Allora, intanto il clustering è una tecnica che per l'analisi dati che ha almeno 50 anni di storia, d'accordo, e che ha trovato, diciamo, applicazioni in tantissimi campi, e dall'astronomia, può sembrare strano, ma se uno vuole identificare in una fotografia di un cielo stellato dei gruppi di stelle, e quello è un problema di clustering. Diciamo, alle scienze sociali, uno vuol sapere quali sono le condizioni, le associazioni che ci sono tra una serie di comportamenti e una serie di condizioni ambientali, diciamo, quello è un problema di clustering. Altri ambiti sono, in maniera, diciamo, molto banale, l'utilizzo, per esempio, di carte di credito per poter fare dello shopping. Quali sono, diciamo, i clienti che in un qualche modo si raggruppano secondo, diciamo, gusti comuni? Questa è un'altra, diciamo, applicazione di clustering. Analisi di documenti, ce ne sono, diciamo, veramente di svariate. Il clustering è una delle tecniche più pervasive che c'è nell'analisi dei dati. E allora, seconda pausa di Cacciafotone, musica. Intanto ti ringrazio, Raffaele. Con un piccolo pezzo musicale facciamo uno stacco e poi di nuovo in studio con il dottor Filippo Utro. A dopo. Ragazzi, se la realtà fosse così. Touched it up. was all mine. I let to go where I've never been. Is your spaceship big enough for one more? Bentornati in studio, cari ascoltatori, siete sempre all'ascolto di Caccia Fotone. Il pezzo che vi state ascoltando nella coda, questo secondo pezzo musicale, è Spaceship dei Fresh Body Shop. Intanto in questa seconda parte della trasmissione saremo in compagnia del dottor Filippo Utro, postdoc presso l'IBM. La prima domanda che ti voglio fare, Filippo, è una domanda del tutto personale. Tu lavori negli States, a New York. Qual è stato il tuo percorso personale che ti ha portato a scappar via da questo paese, come peraltro molti ricercatori che abbiamo intervistato quest'anno a Cacciafotone? Beh, diciamo che questo paese, durante l'ultimo periodo del mio dottorato, doveva appunto guardare il mio futuro, e questo paese non c'era. Vi era una posizione, quindi diciamo una specie di bando che avevano presentato. Ho fatto domanda con tutto il mio curriculum vitae, studiorum e scientifico, un colloquio, una presentazione, ed eccomi qua. Beh, da come la racconti sembra un percorso molto facile e molto normale, in realtà penso che proprio facile non sia stato. Senti, la cosa più importante che pensi che è uscita fuori da questo paper scritto col professor Giancarlo, quale pensi che sia stata? Un aspetto appunto metodologico che è stato fatto nella parte di questo lavoro, infatti è uno dei pochi, se non l'unico lavoro che tiene in conto un 12 dataset di benchmark, quindi un grandissimo numero rispetto ad altri lavori pubblicati in letteratura, e appunto una sua rigorosità nello standard con cui è stato portato avanti, che penso sia alquanto unica, rende a questo lavoro abbastanza apprezzabile in letteratura. Abbiamo usato più dati di quelli che realmente la gente usa. Tipicamente un paper può usare 3 o 4 dataset nel migliore dei casi, cioè un insieme di dati per validare il proprio metodo. Noi ne abbiamo usati ben 12, fra i più difficili tra l'altro, dove appunto metodi che vengono affermati in letteratura come delle star, come delle uniche soluzioni, falliscono, dove il nostro metodo invece riesce a ottenere ottimi risultati. Filippo, questo è un ambito della statistica e della matematica in particolare molto, molto interessante, soprattutto perché come dire, aiuta i ricercatori a ottenere dei risultati, che questo è il significato più intrinseco del vostro lavoro. Tu personalmente come sei arrivato a studiare questo aspetto della scienza? Diciamo è stato un percorso abbastanza lungo. Ho cominciato con la mia tesi della laurea triennale presso il corso di laurea in informatica a Palermo, e ho portato avanti questo progetto insieme appunto al professore Giancarlo e ad altre persone durante tutti questi anni, sia appunto tesi triennale, tesi specialistica e tesi di dottorato. Allora Filippo, a questo punto entriamo davvero nel contenuto del vostro paper. Nel vostro paper voi, in parole povere, fate un upgrade di un metodo precedente, il cosiddetto consensus clustering, ne fate un upgrade e attraverso questo vostro aggiornamento il metodo diventa più rapido, tra virgolette. Come sono stati scelti i dati che poi sono serviti alla vostra ricerca e quindi in particolar modo per realizzare i grafici riportati nel paper? Allora, i dati scelti sono stati dati appunto da microarray, che è da espressione genica. Questi dati sono dati presi in letteratura, sono dati abbastanza standard presi in letteratura e corrispondono a troppo dati da tumori nella maggior parte dei casi. Il metodo, quelle quattro figure che tu nominavi, sono appunto i risultati del metodo, due relativi al metodo lento e due relativi al nostro algoritmo, che è il suo speed up, quindi il suo miglioramento. Le figure mostrano come vi è un perfetto agreement, quindi un perfetto accordo fra le due figure, mostrando come anche in meno tempo è possibile ottenere la stessa soluzione. Diciamo che da un'analisi fatta dell'algoritmo si è notato alcune computazioni che possono, tra virgolette, essere dette inutili, in quanto questo metodo è uno metodo basato sul concetto di stabilità, cioè ripete più e più volte lo stesso algoritmo al fine di trovare la nostra struttura. Noi abbiamo migliorato appunto questa ripetizione dell'algoritmo. Una scatola rossa che è l'algoritmo vecchio, una scatola verde che è quello nuovo. Metti i tuoi dati all'interno di questa scatola, dentro di queste due scatole, e dopo due giorni puoi aprire la scatola verde trovando il tuo risultato. Per la scatola rossa devi aspettare 3 settimane. Non importa quale sia il tuo dato, cioè l'origine del tuo dato. Questo metodo fortunatamente è un metodo molto generico. Quindi appunto appena riuscirai ad aprire la scatola rossa, troverai lo stesso risultato che hai nella scatola verde. Con questi dati avete sviluppato una piattaforma hardware, quindi sulla macchina, oppure una piattaforma software con un'interfaccia grafica? Abbiamo sviluppato una piattaforma software, ma non solo per questo algoritmo, ma con vari altri algoritmi, un lavoro molto più ampio che abbiamo fatto anche in collaborazione col dottor Davide Scaturro, che non si è occupato in particolar modo di consensus clustering, ma ha lavorato all'interno di questa piattaforma. I step futuri penso che sia cercare appunto di migliorare ancora qualcosa nei tempi di questo algoritmo per tentare di fornire ancora una soluzione migliore in ancora meno tempo, quindi tentare di ottenerla in qualche minuto. Filippo, ti devo chiedere di essere un pochino più preciso, perché in effetti il Fast Consensus, che poi è il nome dell'algoritmo che avete sviluppato, l'avete fatto passare attraverso cluster come l'IR e il K-Means, per esempio, sono molto celebri. Quali sono i parametri in gioco e perché il Fast Consensus si approssima al consensus ed è più veloce ed è anche più preciso? Come peraltro fanno vedere le tabelle? Le tabelle mostrano, appunto, riassumono i risultati del lavoro e mostrano il nostro metodo, confrontano il nostro metodo con gli altri presenti in letteratura da due punti di vista. Dal punto di vista dei tempi computazionali e dal punto di vista dei risultati ottenuti in termini di performance, come capacità del metodo di individuare la struttura dei dati. Si vede come il nostro metodo sia il migliore da un punto di vista di capacità di individuare strutture, e come questa sua capacità sia anche relazionata da un buon tempo computazionale. Vi sono appunto alcuni metodi che sono più veloci, che nel giro di un minuto riescono a darti una soluzione, ma che non è quanto precisa quanto quella fornita dal nostro. Quindi riusciresti ad avere una soluzione, ma che non è esattamente corretta, mentre aspettando qualche altro minuto con il nostro metodo riesci ad avere un risultato migliore. E allora a questo punto ci fermiamo un attimo, poi torneremo in studio e quando torneremo in studio andrà in onda la nostra classica domanda zainetto. A dopo. Grande Giove. Control of my mind. Bentornati in studio, cari ascoltatori. Siamo nella coda finale di Caccia Fotone. Noi siamo sempre in compagnia col dottor Filippo Utro, postdoc presso l'IBM a New York. E quindi, Filippo, l'ultima domanda che ti voglio fare è la classica domanda zainetto. Quale delle tante cose vissute all'interno di questa ricerca metteresti nel tuo zainetto da ricercatore per conservarti e portare con te nelle prossime ricerche? Credo sia l'esperienza maturata nella metodologia, cioè nel senso che il modo di come fare le cose, perché è un modo che appunto può essere usato, è un modo secondo me giusto, per questo la voglio portare, che appunto mi è stato tramandato in qualche modo, o ci ha provato il professor Giancarlo a spiegarmelo, il cui ti permette di affrontare qualunque problema nell'ambito scientifico in maniera chiara e ordinata, perché penso che quello sia la vera cosa che deve fare la ricerca. Non importa quale problema riesci hai davanti, ma è come lo affronti che conta. Filippo, allora con queste tue parole si conclude la 194esima puntata di Caccia Fotone. L'appuntamento per tutti voi e alla settimana prossima con la puntata 195, e l'augurio e il classico di buona scienza a tutti. Grazie Filippo. Merci. E con chi stai parlando? Dici a me?